Torna sa cazzata, no, per piacere, ah, ah. Siamo noi. We are Mikey. Coming. In che senso? Di Mozilla? Bros. Atlanta, Georgia. Raleigh, North Carolina. Buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo ritornati in trasmissione, siamo i soliti Mozilla Bros del ritardo, perché sono le 17. Da dove sei tornato? Dal mondo del blues, diciamo. Ma va. Siamo tornati tutti quanti al mondo del blues. Siamo i Mozilla Bros su 105.7 Radio Ciroma, Cosenza, chiaramente. E lo sa. Oppure in streaming su www.mozillabros.com o su ciroma.org, il sito della radio. Siamo in trasmissione, siamo in completa formazione più guests, special guests. Siamo Ciccillo. Buonasera. Il grandissimo Nosendai. Uh-huh. Il grandissimo Garulf, per di nuovo in trasmissione dopo le sue escursioni san giovannesi. Io sì, sempre ospite. Come non è vero, tu sei uno dei nostri pilastri portanti. Poi c'è l'altissimo Andrea Blues. Sempre qui a Cosenza. Minchia, questa confidenza non lo so. Ciao a tutti, Blues On. E poi alla voce ci sei tu, il nostro Lorenzo Blues. Buonasera a tutti quanti. E poi ci sono i nostri ospiti. Ci sono i nostri ospiti questa sera con un ospite addirittura super speciale, io direi. C'è comunque, al di là dello schermo, in regia c'è Marina, che deve salutare. E si è sentito. Poi ci sono i nostri due petronesi preferiti, che sono Stefano. Salve. E Paolo. Buonasera. E il nostro cosentino doc d'eccezione, Giorgio. Non si è sentito niente, ma comunque è stato un salve molto, molto di queste zone, di queste vineggio, diciamo. Dopo la nostra spettacolare sigla, passiamo subito al primo pezzo, come dicono i nerd, vero? Passiamo subito, quindi? Subito. Non volete fare una piccola introduzione? Non c'è bisogno. Siete impreparati? No, come assolutamente noi? No. Salutiamo Gesù. E salutiamo Murphy, che da tanto che non ci fa visita. Ecco qui, è scatenato l'impero. E salutiamo Luca e Bruno, così. Perché è tipo Dio, ma più forte. E ci ascolta. Salutiamo i nostri ascoltatori e partiamo col primo pezzo. Dobbiamo dedicare un pezzo a Luca, eh? Poi ce lo faremo. Ce ne chiede diversi. Lo faremo. Questo è Time Hall. Bound. Loved. You know I love my baby. Lord, I know she bound to love me some. Well, I love my baby, and I know she bound to love me some. You know the girl put her arms in round me like this circle all around this. She's so sweet and fine. Lord, take her anywhere I go. You know my baby, sweet and fine. Take her anywhere I go. But But you know I won't take it down there to Georgia, cause I just can't go back there no more. Won't you tell me, baby, honey, how you want your rolling done? Won't you tell me, baby, mama, how you want your rolling down? I do believe to my soul you want me to roll you, mama, from sun to sun. Well, sometimes I feel like hollering, do it like a mountain jack. Sometimes I feel like hollering, baby, like a mountain jack. You know I keep on hollering till I got my sweet baby. Well, if you don't see me, baby, you know where I will be. If you don't see me, baby, mama, now you know where I will be. I'll be down in San Antonio, Texas, baby, down in Tennessee. Play along now. You know my baby, well, she fine and round. Oh, you know my baby, yes, she fine and round. And my friend, I want to tell you that she the best dog, dog maker in the town. Well, I love my baby, I know she bound to love me some. Well, you know I love my baby, Lord, she bound to love me some. Put her arm around me, like a circle around me. Buonasera, noi siamo i Mozilla Bros. Questo è stato un bellissimo pezzo di Taj Mahal. E adesso parleremo un po' di questo fantastico chitarrista, che non è solo un chitarrista, perché suona anche tipo il banjo, l'armonica, il piano. Sono un po' di tutti gli strumenti, diciamo. Un bengista, sì, un armonicista, un pianista. Che dire di Taj Mahal? Intanto che Taj Mahal non è il suo nome, ma ha preso il suo nome dal famoso monumento indiano Taj Mahal. E il suo nome vero è Henry St. Clair Fredericks. Ed è uno che ha studiato zoologia. È più facile Taj Mahal. Sì, sì, sì. Uno che ha studiato agricoltura molto e zootecnica. Molto più cosentino pure. Tipo, Taio com'è tutto? per dire, per usare uno dei nostri sistemi di categorizzazione, citando uno dei nostri ospiti, questo è uno del vecchio blues, o no? Old blues. Giorgio, cosa ne pensi del vecchio blues? Ne pensa ok. Stando attenti alle cuffie, Taj Mahal è un tizio che è cresciuto a Springfield. Insieme a Homer. Era vicino di casa di Homer Simpson, mi dicono qua. E ha ricevuto due Grammy, non era uno così. Sì, non era. Due Gremlins. Sì. Non sì, quei mostriciattoli sì, sì, a forma di Gesù Cristo. Li conosci? Uh-huh. Ha avuto, insomma, numerose... cose. Insomma, la pagina di Wikipedia a quanto pare è lenta a caricare oggi. Abbiamo un po' di problemi tecnici. Diciamo che è un po' scarna, quindi non sappiamo cosa prende. In realtà non è così, vabbò. È un chitarrista, stiamo scherzando. Noi sappiamo tutto sui bluesmen che passiamo. È un chitarrista che ha diverse... prende diverse ispirazioni da diversi tipi di musica, dal gospel anche dal reggae. Infatti la sua musica, alcune delle sue canzoni deviano un po' verso questo genere più afroamericano che effettivamente blues, anche se il blues è la musica dei neri d'America. Sì, c'è anche molto reggae, infatti, eh? Sì, come a ricordi, sottolineare il suo carattere nero. Sì, soprattutto il suo essere nero, ma anche il gospel, c'è qualche influenza di tipo gospel, la musica sempre dei neri cantata a coro, soprattutto nelle chiese. Però... a cappella. Mi ha preceduto di un attimo comunque. Ma con questi cappella siamo un po' fissati. Sì, infatti ricordano sempre le cappelle. Chissà i nostri nerd. No, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Ha suonato con un... ha fondato un gruppo con un altro notabile, cioè degno di nota chitarrista, un certo Ry Cooder, che tu ben mi insegni. A Los Angeles nel 64, dopo essersi laureato in agricoltura e zootecnica, quindi questo era proprio un bluesman che zappava la terra con stile, ha formato questo gruppo che si chiama Rising Sons, cioè i figli nascenti, cioè i blues, voglio dire. Notevole, notevole. Niente, questo è Taj Mahal sostanzialmente. Adesso... no, questa era Ry Cooder. Chi di prima era Taj Mahal. Per chi volesse più informazioni, c'è sempre Google, tipo. Ma sì. da dove l'avete scaricato sto pezzo? Da dove l'abbiamo scaricato? No, questo qua c'è da il YouTube. C'è il CD originale. Che schifo. No, CD originale. Originale, esatto. Stai dando un cattivissimo esempio. Esistono, siamo in Mozilla Bros. E tu dici CD originale. Sì, non l'abbiamo mai detto CD originale. Me l'hanno regalato. No, me l'hai rubato in un autogrill almeno. A me. Me l'hanno regalato. Salvati in questo modo. Me l'hanno regalato. Io direi che possiamo passare benissimo al prossimo pezzo. Che è questo qui? No? Possiamo pure lasciare questo. No, passiamo al prossimo pezzo. Oh, Blues, sì, Beatles. Cioè. I Beatles, blues, ne abbiamo parlato l'altra volta, ma adesso abbiamo mostrato il blue side of the Beatles. Sì, è certo. Come facciamo ogni volta. Tra l'altro questa canzone si chiama, cioè non mi ricordo bene come si chiama, però c'è tipo blu nel titolo, è vero? Ma guarda, mi fai schifo a volte proprio, guarda. Tu l'hai portato. A volte. Lo so, lo so. A volte sei magnanimo. Quindi anche nel blu dipinto di blu, blues, no? Ma un conto se lo il fanno nesto logico era un conto se lo fanno i Beatles, un conto se lo fa qualcun altro. Vabbè, Cicci, mettimi un po' il gatto Nian che partiamo con le notizie nerd. Su. Quale? Quello c'è ancora sto gatto, Ganja. Io. Ma non potevo ammazzare questo pezzi gatto. Guarda. C'è anche se interrompe le Zeppelin. Infatti sì. Ecco qui. Ascoltiamo. Ok, la vendetta di Luca Bruno callerà su di noi. Con questo splendido sottofondo del gatto Nian nella variante Ganja iniziamo la nostra rassegna di news nerd. Apriamo con una tristissimissima notizia. È morto qualcun altro. Peggio. Pensa tu, c'è ancora. È risorto Gesù. Peggio. Oddio. Peggio. Ti hanno chiuso YouPorn. Quasi. Fuocherello. Perché diciamo che c'è ancora chi nel 2012 cerca non solo di censurare qualcosa su internet, ma addirittura la natura stessa di internet. Traduzione della secondo serie, voi, dai, facciamo un sondaggio. Spegniamo internet. Facciamo un sondaggio. Per riviste così scientifiche A. No. No, aspetta, stiamo poi facendo un sondaggio. B, sport. Ma non ci vorrebbe tipo la musichetta al milionario di sotto, no? Aspetta che mo la scarico, la facciamo. Dai. C, il porno. C. Chissà. Sì. Ebbene sì. Dall'entusiasmo con cui io avrei sperato A. Io avrei... Non ditemelo perché poi c'è come pazzo. Un uomo già distrutto, diciamo. Sì. Ebbene sì, perché apriamo la rassegna di News Nerd con questo lutto. Con questo lutto perché c'è gente fuori del mondo come il ministro Salem, un nome e una garanzia, un ministro egiziano che qualche giorno fa si è svegliato e ha deciso che il porno è una minaccia per l'integrità soprattutto dei minorenni in Egitto. Dopo questo ministro, dopo che si è scaricato tutti i terabyte di... Esatto, probabilmente di ha detto che ci stanno più di un milione di siti per adulti, al contempo ci sta anche però del software in possesso da varie aziende di ICT in grado di bloccarne l'accesso da parte di utenti minorenni. Ora, a parte la cazzata di riuscire a capire com'è che un utente maggiorenne o minorenne, e a parte la cazzata di dover dire alla gente cosa poter o non poter guardare su internet, questa notizia, cazzeggia a parte, è un po' preoccupante perché comunque sappiamo sempre che i vari filtri sulla rete vengono sempre fatti con scuse più o meno in sintonia con quello che è il sentire popolare del paese. Per esempio in Occidente si parla di pedopornografia, in Egitto si parla solo di pornografia. In Francia, per esempio, per collegarci, si sta parlando adesso, visto la strage successa qualche giorno fa vabbè, insomma, avete capito, quel tipo che ha ammazzato gli altri, che io non è che ho seguito tantissimo. Sì, vabbè, ho seguito la notizia nel momento in cui Sarkozy ha dichiarato che lo vuole vivo. Eh? Lo vuole vivo. Esatto. No, non che già no, preso. Che... Però no, ucciso. Sta dicendo in relazione a sta cosa. Quindi lo cacano molto a star così, diciamo. Possiamo dire anche questo. È un minchione. Sì, diciamo che se ne è uscito con la cosa che chiunque chi consulti abitualmente un sito legato in qualche modo al terrorismo e cito testualmente, all'odio, non si capisce... www.camera.it è uno di questi, eh? Sì. Per esempio, o anche il sito della Lega Nord. Comunque, complimenti per il sottomondo. Potrebbe appunto essere punito come un criminale. Ora, cioè, tutti questi tentativi stupidi di per sé dietro possono nascondere ben altro, perché quantomeno, per esempio, Sarkozy, per punire chi va sui siti dei terroristi, dovrebbe quantomeno andare a monitorare tutte le connessioni per capire. Chiaro. Esatto, quindi c'è già il monitoraggio. Stessa cosa il ministro Salem per censurare i vari siti pornografici, farà delle blacklist. Ma chi controlla che in queste blacklist non ci siano per esempio siti di dissidenti politici o altro? Pensiamoci col gatto Nian. No, dei Zen Confused, dai, ti prego. Il gatto Nian? No. Gatto Nian? Guarda, la vendetta, la giustizia di Luca Bruno calerà sopra di voi con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno. Piuttosto vogliamo dare consigli seri. Cioè, se cacciano il porno, vabbè, da dove lo possiamo che, scaricare? A parte che la, cacciare il porno è come voler dire tagliare il 90% di internet. Cioè, appunto. Praticamente... Anche perché storicamente quindi il tu porno... puoi buttare il computer, Andrea. No, ma storicamente il porno è stato il motore di internet. A parte che gli introiti economici più grandi girano attorno al porno. Le innovazioni tecnologiche, cioè, secondo voi il primo streaming online di cosa è stato? Dell'uomo che va sulla luna? No. Del stato Gesù un porno. Di Zeffirelli? No. Gesù di Zeffirelli, no? No, nemmeno. La ficcata di Rocco con qualcuno. Esatto. E per esempio anche i primi fra i primi videogiochi, dopo diciamo un clone di un missile che sparava i vari cosi, sono state avventure testuali o pseudografiche porno. Quindi, cioè... Bene, quindi ci stai dicendo che la nostra cultura informatica si basa sul diciamo porno. Stiamo dicendo dell'ovvietà, cioè che tutto gira attorno ad una cosa, secondo me. Cioè, gira e rigira, figuratevi internet. Cioè. Tira più... Poi il porno ultimamente, negli ultimi anni, vive grazie ad internet, quindi... E tu vivi grazie al porno. Io vivo grazie ad internet, poi la... no, è internet il collegamento vive, lo fai è tu. È internet che vive grazie al porno e non il contrario, capisci? Cioè, il porno si fa comunque, internet poi ci campa di sopra e quindi tu di conseguenza. Ma tu invece, non so più. Io niente. Comunque, vabbè, a parte le rivolte in Egitto... Viola. Di nuovo per il porno basterà sicuramente per utilizzare i soliti proxy per aggirare qualsiasi tipo di censura. Sì, a proposito... Come per Sarkozy, chi è davvero un terrorista motivato avrà i mezzi tecnologici per andare a visitare i siti dei terroristi tipo senza Cipolla, farsi sgamare. Torno. Ma Tor giusto per dire uno dei tanti network anonimi, ma comunque cioè in generale soprattutto chi è malintenzionato e ha dietro un bel po' di soldi può usare strumenti che garantiscono un animato anche migliore di quello di Tor. Come Tor, per esempio. Che poi per andarsi a scaricare cosa? La guida per fare la bomba su per YouTube in 5 lezioni. Ecco qua, ci hanno denunciato. Perfetto. A proposito di porno, quindi ricordiamo un proxy che tipo nascondi il mio culo, anche se nascondi il... Sì, hide my ass. Significa nascondi il mio culo. Ah, che tra l'altro rinnoviamo prima di lanciare il prossimo pezzo, che sarà qualcos'altro di blu. Rinnoviamo la solita denuncia che anche dall'Unical, per esempio, YouPorn continua a essere filtrato. Cioè, guarda che incredibile. E se una sociologia deve fare uno studio su come si accoppiano gli aborigeni... E non è filtrato... The Pirate Bay, però. Quindi potete scaricare i porno da Pirate Bay. Sì, perché con voi Unical funziona i torrent, quindi... Beh. A proposito di Pirate Bay, ho scoperto ora che Microsoft in Messenger censura i link che si passano agli utenti. Cioè, se tu inizi a dire a un tuo amico, oh, scarica questo, al tuo amico gli appare, attenzione, c'è un malware. Killer, per non dire, oh, guarda, stiamo vedendo tutte le tue discussioni. Ah, e ricordiamo quindi il programma che ha fatto la The Crew, no? SD Chat. SD Chat, sì, ma è un progetto un pochino contorto, ha una sua storia, sta crescendo. Okay. Sta crescendo allo stadio di larva ed era un progetto ben avviato, quindi pensate un po' con la crescita come avviene. Passiamo al prossimo pezzaccio, Cici. E questo mi sa che è John Scofield. E la canzone si chiama Fat Lips. Senza la S. Vaffanculo. Labbro. Grosso. Porno. Tumido. Labbro grasso. John Scofield, please. We'll be right back. Che pezzaccio, ogno. Andrea Blues, che ne pensi di questo pezzo? Bah, direi. Per ricordare lo sgarro che ci hanno fatto quelli di RTL 102.5. Cioè, ma la vogliamo dire questa cosa? Abbiamo già detto tutti qua. La vogliamo ridire? Sì, ridiciamoci. Cosa ti è successo? Niente, niente. Cazzate. Vabbè, cazzate perché evidentemente. No, è una storia di plagio. Plagio che interessa a te, quindi non è plagio. Dovresti storia... sentirti onorato. Una storia, diciamo, di plastica. Ma c'è Lucky Bo? Sprida un po' oggi. Comunque, abbiamo già passato questo famosissimo. Porta aceto e sprida. Ai. Questo famosissimo chitarrista che è John Scofield, famosissimo nonché prolifico, proprio assai. Ne abbiamo già parlato qualche trasmissione fa, salutando Paolo che ci stava ascoltando in diretta dalla P2. E proprio con Paolo e Stefano, che sono i nostri due ospiti petronesi, Petrona Bros, li chiamiamo adesso in trasmissione. Cioè, parleremo di questo grandissimo chitarrista. Prima facciamo ci fanno un saluto di nuovo. Sono Paolo. Buonasera. E Stefano. It's me, Mario. E parleremo di questo grandissimo John Scofield. Che cosa ci volete dire? Ma che comunque è considerato un chitarrista jazz, ma come anche abbiamo sentito dal pezzo. Ciao Paolo. Ciao Andrea, come che stai? Che bella voce. Beh, grazie. Da quanto tempo, aggiungerei, eh? Beh, infatti, un sacco di tempo. Ciao eroina. Dicevo, ha prodotto un sacco di pezzi anche blues, soprattutto groove e funky. Infatti il suo jazz, diciamo che è un jazz che abbraccia un sacco di stili. Altri stili, altri generi. Mi raccontavi tu infatti che quando eri piccolino tuo padre ti piaceva sentire queste canzoni prima di andare a dormire, vero? Sì, e dormivo molto bene, devo dire. E forse è per questo che sei diventato un grande chitarrista, io credo. Esageriamo. No, è così. Mentre quest'altro bluesman di quartiere di Petronà, che cosa ci può dire su John Scofield? Bah, come per citare qui in radio gli amici di Mozilla Bros, io personalmente di John Scofield apprezzo parecchio, parecchio il chorus, il suo uso del chorus. Ha degli effetti che a me fanno letteralmente, diciamo... Non lo diciamo. Ma aspetta, perché forse chi ci sta ascoltando non sa bene cos'è il chorus. Ah, un chorus. Cos'è un chorus? Vabbè, un chorus è un effetto di modulazione, diciamo, del suono. È usato per fare una specie di eco, un riverbero, molto molto leggero. Però se... Aspetta, forse ci sono un coro, ecco, il nome può essere abbastanza... Ma non quelli della chiesa. Elusivo, no, assolutamente, no, John Scofield. non è di questo genere, ecco. È girato a 1000, diciamo a 11 nel gergo chitarristico, ha un suono molto molto acido, perfetto per il funk. Cioè, a 11 perché... Che succede? Cazzo vuol dire questa cosa? A 11, te lo stavo spiegando per ignoranti come te. Perché ignoranti le manopole degli amplificatori o degli effetti di modulazione. Cazzo, a tu l'ha letto questa cosa? Vanno da 1 a 10, anzi da 0 a 10. Quindi da 1 a 10, quindi va a 11. Da 0 a 10, minchio. Peggio ancora. Comunque, da 1 a 10, quindi mettendola a 11 è come se... Come se non ci fosse. È una metafora. Giri la manopola così forte che sprida. Vai. È come dire a un playboy: oi, vacci mille. Salutiamo Natale. Salutiamo Natale. Questo notevole chitarrista ha suonato con artisti di grandissimo proprio pregio, no? Tipo Miles Davis, vero? Oppure quali altri? Un sacco di altri, per esempio Pat Metheny, oppure addirittura Carlos Santana, Tom Morello, che comunque sono di tutt'altro genere, ma hanno collaborato con lui per vari pezzi. E poi nell'82 è entrato nella Miles Davis Band. Questo penso sia importante dirlo. Quale dei CD consigli di scaricare ai nostri ascoltatori, Stefano? Assolutamente, personalmente, i miei preferiti sono quelli con Medeski, Martin & Wood, dei chitarristi europei, i chitarristi strumentisti, diciamo, bassista, tastierista e batterista europei. Quindi molto molto legati alle timbriche nordiche, ecco, appunto. Ah, perfetto. Ricordiamo che potete scaricare gli album di John Scofield dai torrent, usando i torrent. E ricordiamo anche che tra le sue ultime produzioni, quindi Fresco Fresco, ha fatto un CD dedicato a un CD tribute dedicato a Ray Charles, il grandissimo pianista. Io direi che abbiamo parlato un bel po'. I nostri amici di Petrona, per essersi fatti sentire la prima volta, se la sono cavata abbastanza bene. Non si sente un cazzo di quello che stai dicendo. Questo perché quel gay pride che sta al mio fianco, diciamo, non ha proprio l'abilità di manovrare. Esatto, ma perché uno sta facendo, Kiro? No, non sto parlando di Garul. Sì, perché sta giocando, sta facendo i cazzi suoi. Sto parlando di Ono qua, che ono sta, facendo dai, sta facendo i gran cazzi suoi. Esatto. Ed è la parola esatta. Tu pensi che l'ho usata così, giusto per usarla, no? Bah, direi che John Scofield può essere perfettamente per il momento archiviato. Prossimamente passeremo un altro pezzaccio di questo grandissimo chitarrista statunitense che suona con gli europei. E passiamo al prossimo pezzaccio che... Però prima di passare al prossimo pezzaccio e presentarlo, un momento di solidarietà internazionale. Ah sì, un momento di solidarietà agli egiziani. Cari fratelli egiziani, contro tutte le censure, sappiate che tutti i regimi un porno li seppellirà. Basta. Ecco, ok. Colgo l'occasione. Abbiamo anche fatto un momento di solidarietà internazionale. Sì, i Teleton. Sì. Notavo anche la faccia dei nostri ospiti, un poco tra cui la tua Marina. Vorrei cogliere l'occasione per lanciare, prima di lanciare il prossimo pezzo, che mi dici essere Derek End? No. Sì. C'è stato un attimo. Primo. C'è stato uno slap. No, non dovrebbe essere lui quello. Lui ha slappato. No, perché l'hai fatto? John Luker? Dopo. No, quello. Caparezza? Allora primo. Torniamo a Backdoor. Esatto. Backdoor slap. Sigla dei Mozilla Bros. No. Che lo dovremmo dedicare al nostro amico di Petrona che è venuto l'altra volta, Gualtiero, o meglio Walter. Esatto, lo dedichiamo a lui. Questo è Backdoor Slam. Ma che gente, voglio. Dai, passa sto pezzaccio. Un bellissimo rock blues. you gone for good. I would get you back if only I could. Buonasera ai nostri radioascoltatori. Wow, che pezzo. Scusate che abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo. E nel frattempo, mentre vi passavo questo pezzaccio, se volevi dire qualcosa, caro. No, stavo ascoltando che sei in piedi e dai una dinamicità al gruppo. No, resta. Okay, abbiamo scoperto che c'è un pezzaccio di un tale Skip James che si chiama... Non sei degno, porca puttana. Dai, sto scherzando, chiaro. Che si chiama Lorenzo Blues. Non sto scherzando, potete cercarlo su YouTube. Noi non sapevamo che esistesse questo pezzo. L'ha scritto uno dei nostri ospiti, chi di preciso? Voglio il nome. Paolo, è stato Paolo a scrivere Lorenzo Blues. Ha cercato a trovare. Ma non è giusto. Come non è giusto? Picchettia sì a me. Comunque, errata corrige. Skip parla di una certa Lorenza. Ma nessuno è errata corrige. Nessuno è errata corrige. No, in realtà. Non ti invidio più, Lore. Anche questo invece spiega l'invidia di Andrea. Sì. Ma in realtà, comunque, che ne vuoi dire? Io non ho detto niente. Tu che hai capito? Sì. Ha capito che tu gli hai detto che è un ricchione. Codi paglia, gambe. Comunque, forse si chiamerà Lorenzo, forse si chiamerà Lorenza. No, si chiama Lorenzo Blues. Ognuno. Non so, allora Skip James, mi volia, io non sapia. Comunque, ricordiamo, facciamo un saluto a Gualtiero. Walter. Chiedo scusa al pubblico per questi soggetti. Sì. Per il pezzaccio di prima. Noi siamo, ricordo chi siamo. Siamo i Mozilla Bros. No, ricordiamo... comunque prima è bel pezzo, Cioè, non lo sa. Voglio ribadire, è un non bel sa. Pezzo. Ma è proprio bellissimo. Un gran pezzaccio. È stato bello. Sì. Ricordiamo... è stato bello. Davvero bello. È stato bello, Sì, mi fa parlare, però. No, proprio bellissimo, davvero. Capito. Ho capito che ti è piaciuto. Siamo i Mozilla Bros. Ma non ti fare l'alto, che se si alza anche Angle. Lo so, cioè. Ma io per mettermi al suo stesso livello. È quasi più alto da te da seduto. Scusa l'interruzione, sì. Dicevi? Vi odio. Che siamo i Mozilla Bros. 105. Un commento Angle me lo fa sulla canzone? Un commento sulla canzone ce la fai? Su quale? Quella che abbiamo appena sentito. Quella di Lorenza? Quella di Lorenza Blues? No, Andrea, ma niente. Ma proprio ci vuole poco. Sì, infatti sì. Ero un po' impegnato ad affari sotto la scrivania. Mamma mia. Occhio. Vabbè, dai, passiamo. Sì, era bella comunque. Passiamo, sì. Molto bella. Bellissima. Passiamo alle news nerd. Ah, sì, continuiamo con le senza news ricordare nerd. Chi siamo. Come? Siamo in Mozilla Bros 105.7. Sì, io non le ho tutte queste crisi di identità di solito. Me la riesco a ricordare per 10-15 minuti di fila. E per ricordarlo a chi magari si sintonizza sulla frequenza di 105.7 a e Ciroma, si chiede, ma chi sono? Sti minchioni. Perché sono? Bene, ok. Io sono Gesù. E volevo dire che è stato fatto un piccolo passo in più verso la direzione in cui le tecnologie libere soppiantino totalmente le tecnologie chiuse. E la salvezza dell'uomo pure. Sì, infatti parliamo di quella cosa odiosissima che è nei nostri browser che si chiama Flash. Flash? Come ci sta Flash? Sta simpatico Flash, no? Un bel programma, no? Ma chi? Quel supereroe della Marvel? No, guarda, si usa solo per vedere i porno, ma solo perché siamo costretti. Esatto, perché ne avevamo già parlato in una puntata precedente. Lo streaming video dei contenuti video porno e non online è, diciamo, quasi legato a questo programmino che però è chiuso. Lo standard ha cercato di adeguarsi, è uscito questo famoso tag HTML5 video. Come? Video, il tag video. Sì, il tag video in HTML5 che permette appunto di streamare dei contenuti multimediali senza utilizzare programmi di terze parti, come Flash. Però restava anche un altro nodino, il fatto dei giochini Flash, che come fa uno a non usare i giochini Flash? Cioè, dopo uno che si vede il porno su YouTube, cioè, che cosa fa? Cioè, avete mai giocato a multitask? No, devi fare più cose insieme, è bellissimo. Io giocavo a Puzzle Bubble multiplayer, era fantastico. Io non riesco a passare neanche i primi 30 secondi, però è bellissimo. Invece c'era un altro bellissimo, c'era una interpretazione di Portal, un videogioco che per computer però richiede tante prestazioni, un hardware di potente, ed era stato fatto in Flash in 2D, fantastico. Ma quanto potente? Tanto. Come ti piace a te, eh? Però la news nerd è appunto che Mozilla, per capirci... C'è un'altra news però. No, aspetta. Velocissima. Prima... Cristo Regni. Questo è importante. Va bene. È importante. Mozilla, quelli che fanno Firefox. Quelli che danno il nome a noi. Quelli che danno il nome a noi. Hanno sviluppato un gioco totalmente basato su tecnologie open, con HTML5 e WebSocket, che dovrebbe essere una cosa fighissima, che non si capisce cos'è, che fanno... Come si chiama questo giochino, caro? Si chiama Browser Quest, ed è un giochino che, diciamo, si rifà ai vecchi giochi RPG di ruolo, tipo Zelda. Tipo alla Zelda. Anche se non c'è nessuna principessa. E se qualcuno di voi si sta chiedendo perché Garolf non ha parlato fino a mo', perché ha giocato fino adesso a questo gioco. Esattamente, stavo leggendo le notizie e poi mi sono bloccato. Questo gioco è multiplayer e comunque il codice è stato rilasciato completamente. Diciamo che più che lanciare un gioco all'ultimo grido, Mozilla ha voluto semplicemente dare un esempio di come si potesse usare HTML5 per fare giochi comunque di alto livello, e quindi abbandonare questa triste... E l'osca... Questa triste? Piaga. Piaga che è Flash. Sì, anche perché se avete un computer che ha meno di 2 giga di RAM, tipo i giochini a cui gioca Marina che su Facebook, non ci potrete mai giocare con Flash. E soprattutto ha avuto una serie di vulnerabilità negli anni passati. Cioè, se avevi Flash ti entravano da tutte le parti. E soprattutto alcuni video si potrebbero bloccare. Alcuni video si potrebbero bloccare. Sì, poi cose, streaming avanti. Mi è successo che certi video non partivano perché dovevo fare aggiornamenti in Flash. Che video? Ma devo sapere troppo. Vabbè, l'abbiamo detto prima. Porno. Bene, quindi ora Marco ci stava dicendo l'ultima bomba notizia nerd, che era appunto che no. Perché come no? Vabbè, sì, c'erano altre due o tre notizie nerd. Tipo, sono tornati i Lulzsec. Andatevi a cercare su Google Lulzsec Reborn e vedete che hanno fatto un sacco di cose. Poi altre cose c'erano, ma non le trovo. Però non finisce qua la roba nerd, perché dopo il prossimo pezzo ci sarà Cicillo con la sua ormai famosissima rubrica su tutti i gadget che uno zallaro digitale deve avere. Thank you. a shame and a sin. You just love that woman. Yes, so much. It's a shame and a sin. But all the time, you know, yes, you know, she belongs to your very best friend. Have you ever loved a woman? Sicuro. Questo sì. Te lo chiedo. Sì. Vabbè. Il titolo di questa sarebbe senza, il, no? Il titolo di questa canzone significa "Hai mai amato una donna?" E questa era una canzone fatta dai Derek and the Dominos, gruppo che diede... Gruppo, supergruppo, ipergruppo, megagruppo, gruppazzo, come volevamo chiamare? Cioè non lo so! Gruppone. Chi erano i membri, Lorenzo Blu? A te che piacciono, cioè. Vabbè, io posso dire solo il primo. Vabbè, dai, li dico tutti quanti. C'era Eric Clapton alla chitarra e alla voce, affiancato all'altra chitarra da Duane Allman, uno degli Allman Brothers. Al basso c'era Carl Radie, poi c'erano Bobby Whitlock alla tastiera e Jim Gordon alla batteria. Riportiamo quello che è stato detto alla trasmissione. No, vabbè, non lo riportiamo perché sarebbe di un'informazione strettamente personale. Un abbraccio al nostro Ciccio Marino che ci segue sempre. Ti voglio bene anch'io. Un altro petronese che manca all'appello è venuto l'altra volta. Ma questi erano i Derek e The Dominos. Abbiamo appena ricordato la formazione che comunque spiccano di più per il frontman della band, che era Tuo Beniamino. È il mio, diciamo, idolo della settimana. Del momento. Del momento, sì. Diciamo che anche il tuo blues è molto eclettico, È molto eclettico. Spazia, sì. Eric Clapton, diciamo, è una figura in cui mi specchio molto volentieri adesso. Questa canzone era contenuta esatto. Questa canzone era contenuta nell'album Layla, appunto, per riferirci al periodo di Lorenzo Blues. Layla and Other Assorted Love Songs, l'unico album prodotto da questo dei Derek and the Dominos, che ha un'immagine di copertina dell'LP bellissima. È fantastica, è molto psichedelica. Leila e altre canzoni d'amore assortite. Infatti Leila, la canzone che una delle canzoni che ha dato insieme a Cocaine, ha dato visibilità a Clapton quando sfondò, era dedicata alla moglie di all'attuale moglie di George Harrison, Patty Boyd. Infatti c'è stata una scappatella, diciamo, tra Clapton e questa signora. Capita Ricozzo. Lui è uscito pazzo. È uscito pazzo per questa signora e ha scritto queste canzoni insieme al suo gruppo, i Derek and the Dominos. La canzone chiaramente parla di questa donna che, cioè, si chiede: hai mai amato una donna? E questa è una domanda che tutti quanti prima o poi si pongono. E c'è chi si risponde in una certa maniera e chi no. Beh, penso che alla fine tutti risponderanno nello stesso modo. Anche se passando per vie diverse ci arrivano tutti, secondo me. È come una vetta da raggiungere. Diciamo che se ci chiediamo cos'è l'amore, spaziamo in quello che è... Cioè, in quanti campi. Cioè, sì, cioè poi ci perdiamo nelle definizioni. Esatto, chi lo definisce in un modo, chi lo definisce in un altro. È il significato quello che conta. Però mi ha deluso Clapton, adesso ne abbiamo parlato. Perché non so cosa ne pensate voi, ma uno come Clapton, cioè il nostro mito, si è andato a sposare, se non mi sbaglio. Dai, non le dire questa cosa. Del santo, voglio, ma picchi. Perché era buona, tu dico io, perché era buona. No, ma no. Dalla quale ha avuto anche un figlio, che è poverino, ha avuto una triste sorte. Però al quale ha dedicato Fato ha voluto che ci ha lasciato uno dei pezzi più belli in assoluto della storia della musica, esatto, che è Tears in Heaven. Tears in Heaven. Ricordiamo comunque che la canzone Have You Ever Loved a Woman è praticamente una canzone che è stata definita un blues standard, cioè un pezzo caratteristico del blues. L'avete ascoltata, quindi avete potuto... Le classiche, ci sono i due bluesman con cui parlare, esatto, di questioni più tecniche. I due chitarristi. Le classiche 12 battute, vero 12 Stefano? Bar, un blues canonico, slow. Uno standard che è stato scritto da Billy Miles, è registrato da Freddie King nei lontani anni 70. Soltanto che con loro purtroppo ha avuto poca fortuna e poi Clapton, ascoltandolo, ne ha saputo trarre il meglio. Insomma, ci ha regalato il pezzaccio. Ma cosa ne pensi di Duane Allman alla chitarra slide? Ne penso, perché più che altro non si può parlare di Duane Allman Skydog senza parlare degli Allman Brothers, con il fratello Greg. Erano Duane e Greg, comunque avevano... Sì, col fratello mi sembra che erano parenti, no? Minchia, erano frate. hanno anche loro hanno contribuito alla storia del rock e alla storia del blues con una caterva di album, ben 42 album pubblicati in una frica di anni di attività, dal 69 stanno suonando questi punk. Vabbè, in una frica di anni penso che ci arrivi a 40 album, no? Sì, diciamo che comunque questo gruppo, i Derek and the Dominos, avevano gente che sa sentire. Tra l'altro Dwayne Alban è famoso per usare una delle chitarre più belle. No, era Freddie King, scusate. Una delle chitarre più belle della storia, la Gibson Les Paul. La classica, diciamo, la classica Gibson, bellissima. E in più usava anche una AS-345 che, come mi dicono i nostri bluesmen di fiducia, una chitarra semiacustica fantastica. Una semi hollow, vero? Esatto, la 335, semi hollow. Significa che è elettrica, però non è neanche acustica come le chitarre che si vedono magari in giro per Falò. Però c'ha una cassa armonica dalla quale si può sentire la musica senza amplificatore. Ma la sai una cosa curiosa? Che quando l'ho sentita mi chiedevo perché, poi ho scoperto tutta la storia in merito alla chitarra. Che hai sentito, gamba? Un certo Roger Waters. Negli anni un certo Roger Waters, non so se l'ha messo in mezzo, è un amico tuo, ma un anonimo che porta per amico tu, no? Magari ti sa bene. Disse negli anni 70, mi sembra, non basta avere una Les Paul per essere Eric Clapton. E mi ha detto: c'è qualche quadra che non cosa. Qualche cosa che non quadra, no? Qualche quadra che non... Ma va! È spirito su vaglione, però. Che spirito d'osservazione. Wow. E perché la Les Paul? Mi chiedevo, no? E in effetti, fino agli ultimi anni degli anni 70, Eric Clapton suonava la Les Paul. Il periodo cream. Periodo coca, non lo so. Acidi. Sunshine of Your Love, insomma. Era un periodaccio di Clapton. Ma comunque, periodaccio? No, infatti sì. Un periodaccio nel senso. Ma poi forse per lui sono stati tutti periodacci. Vabbè, perché è sempre esagerato. Ha sempre fatto un brutto. Sì. Ma Clapton è un grande. Musicalmente ha dato sempre il massimo. Tutti quanti comunque se lo ricordano con la sua Fender Blackie. La sua Fender nera, una classica Stratocaster, chiaramente made in USA, con manico in acero e corpo nero. Sì, è ovvio, no? Lo usava sempre. Corpo nero, esatto, gli ha dato un nome alle chitarre. E ricordando il chitarrone acustico, aveva la Bellezza Negra. La Bellezza Negra. Annoverando i suoi strumenti. C'era anche la Bellezza Negra. Beh, io direi che possiamo passare anche al prossimo pezzaccio, perché noi di blues ne abbiamo parlato. E poi, come ha detto Ono Sendai, si parlerà delle... Balen, voglio. Cioè, Balen. Ci stanno proiettando immagini porno in diretta, fantastico. Adesso si passerà al prossimo pezzaccio. Però Balen non delude, eh? No, vabbè, però io preferisco il blues, diciamo, a Balen. Bugiardo! Ti giuro, ti Ma giuro. Ma lo so che è così, ma anche per me è così. Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl will pass on by. Don't wanna be alone, but I love my girl at home. I remember what she said. Say hi like a spider to a fly. sul pulmanino dalle parti di Viale Parco e stiamo vedendo di fare un'indonazione delle mattonelle viola che magari si addicono di più con la discesa delle paperelle. Questi erano i Rolling Stones con The Spider and the Fly. Vecchio blues, ma ci va. Vecchio blues, eh? Ma è spettacolare, eh? Spettacolare, il vecchio blues. Blues Rolling Stones degli anni 60. E con questa canzone dei Rolling Stones, prima di lasciarvi alla canzone di chiusura, come al solito bellissima, vi salutiamo, noi siamo i Mozilla Bros. Al di là dello specchio ci sono i nostri nerd di fiducia. Ciao, ragazzi. Magari un saluto. C'è anche Marina con una faccia un pochettino dark. Non so che cosa è successo. E invece qui al di là dello specchio, come Alice nel paese delle meraviglie, ci siamo. C'è un vecchio blues, lo possiamo veramente dire. E oramai sì, come siamo sempre nuova. Chi ci ascolta, ma sempre questo. Come lo potrebbe dire anche il nostro ospite d'eccellenza, che è sua la dicitura vecchio blues. E lo potresti pure dire alla Cosentina, come ti si addice. Oh blues, esattamente. Stima eterna. Noi vi lasciamo col prossimo pezzaccio, che è un pezzaccio di Jimi Hendrix in chiusura. Se lo volete ascoltare, è uno dei nostri pezzi selezionati. È Bleeding Heart, tratto da una raccolta live fatta alla Royal Hall di qualcosa. Royal Albert Hall di Londra. Esatto, come ci ricorda Stefano. E vi salutiamo, noi siamo Mozilla Bros 105.7 a Cosenza, in streaming su www.mozillabros.com, www.radiocirome.org, in replica sulle radio di transizione di fase ogni lunedì alle 20 e su Fuori Onda Radio il martedì alle 15.30. E vi ricordiamo che saremo in questa radio, Fuori Onda Radio, siccome domani ci sarà un evento un po' particolare. Già, domani siamo di nuovo. Per la presentazione di un altro palinsesto di quella web radio, noi saremo di nuovo in trasmissione a dire minchiate, a sparare cazzate nerd che magari oggi ci sono sfuggite, e passare chiaramente ottima musica blues. Tenteremo noi. Lo possiamo dire ben forte. Il nostro Andrea Blues domani sarà impegnato nella presentazione di una nuova trasmissione squallida, web. Perché ci partecipa lui. Sì, la voglio bene pure io. La lira di Apollo. Ci diamo appuntamento, se no, alla prossima settimana, sempre sulle frequenze FM di 105.7 di Roma. Noi siamo i Mozilla Bros. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao Bluson e forza Milan. Bluson. Abbasso, forza Bars. Guardate i porni. Cristo Regni! We'll be right back. Anzi il labbra. Com'è la situazione? Thank you. has caused my heart to bleed.